Negli ultimi tempi le atmosfere e le suggestioni di Ancona e della sua provincia hanno contagiato alcuni autori locali di thriller e polizieschi, che hanno scelto questo scenario come ambientazione per i loro romanzi e racconti. Da questo presupposto è nata l'idea della rassegna Ancona in giallo, con l'obiettivo di promuovere le produzioni degli autori nostrani e non solo. L'iniziativa rientra nel cartellone del progetto Leggere il Novecento. A parlarcene è Luca Lorenzetti, organizzatore dell'evento. La rassegna Ancona in giallo prende il via questo giovedì, l'11 maggio. L'appuntamento è presso il cortile dell'osteria Vineria La Cicala a Villa Nappi a Polverigi, e il primo di questi quattro appuntamenti, questi reading di libri che hanno come ambientazione Ancona e la provincia, il primo di questi appuntamenti è con il libro Sherlock Holmes, Anarchici e Siluri della popolarissima autrice Joyce Lussu.